GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La società Terna ha eseguito il monitoraggio dei tantissimi tralicci dell'alta tensione che gestisce in regione, sempre più minacciati dagli eventi atmosferici estremi. Alle preoccupazioni di medici e vignaioli per la richiesta di deroga di due insetticidi potenzialmente pericolosi, replica l'assessore regionale alle politiche agricole. La polizia di frontiera di Trieste ha arrestato 4 cittadini stranieri per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Avrebbero favorito l'ingresso in Italia di 24 migranti. Il centro di ricerche sismologiche di Udine, nella sua rete di rilevazione dati, nel primo di 3 servizi che dedichiamo a questa realtà che studia e monitora la sismologia in regione. Dopo gli anni difficili della pandemia è in ripresa il mestiere dell'odontotecnico grazie alle nuove tecnologie, ma anche qui mancano i giovani. Alle 12:31 minuti e 18 secondi, ancora un cordiale buongiorno da Maria Spezia e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. L'operatore di reti per la trasmissione di energia elettrica Terna ha eseguito il monitoraggio dei tantissimi tralicci dell'alta tensione che gestisce in Friuli Venezia Giulia, sempre più minacciati dagli eventi atmosferici estremi che colpiscono anche la regione. Sentiamo. Stamattina qui dalla stazione elettrica di Basiliano è partito uno dei 7 elicotteri della flotta Terna per uno degli ultimi sorvoli del monitoraggio lungo gli oltre 2000 km di linee elettriche ad alta e altissima tensione di Terna in regione, che è durato 2 settimane. L'ispezione aerea è un'attività che si programma ogni anno e serve a trovare più velocemente eventuali anomalie o deterioramenti che possono precedere un guasto importante. Terna, la cui guida da poco è arrivata, la manager Giuseppina Di Foggia, ci investe ogni anno a livello nazionale 50 milioni di euro, si fa in elicottero appunto, equipaggiato con tecnologia d'avanguardia, anche videocamere a infrarossi per rilevare surriscaldamenti anomali che segnalano i punti deboli sui quali intervenire subito. A gestire la strumentazione tecnici specificamente formati, oggi hanno controllato l'elettrodotto Udine Ovest Re di Puglia, il più recente dei 146 elettrodotti che compongono la rete di trasmissione in regione. I più datati risalgono agli anni 30, quelli che spesso, trovandosi in zone impervie, richiedono più attenzione. Il monitoraggio nel suo complesso non ha riscontrato particolari problematiche sugli elettrodotti regionali, salvo qualche caso di usura. A dare filo da torcere al gestore della rete elettrica nazionale in questi ultimi anni sono gli eventi meteo estremi come Vaia nel 2018, con alberi caduti sulle linee o fulmini che hanno colpito conduttori o funi di guardia provocando disservizi, ma anche le nevicate abbondanti di alcuni anni fa e il vento forte incidono sulle problematiche riscontrate e richiedono costanti controlli anche in elicottero. L'attività aerea viene integrata con le ispezioni a terra necessarie a individuare i problemi non visibili dall'alto, una garanzia di sicurezza per la trasmissione elettrica dalle centrali di produzione alle stazioni elettriche che portano poi l'energia nelle case e nelle attività. Basiliano, Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone si è svolta una conferenza stampa di Promoturismo FVG di presentazione dei progetti Friuli Venezia Giulia, una regione per tutti, dedicata al turismo accessibile sul territorio, con particolare attenzione alle disabilità, prevista nei prossimi giorni la pubblicazione di un portale con numerose informazioni in dettaglio. Si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione all'Infopoint di Sistiana, che ha presentato 2 progetti di Promoturismo FVG. Uno si chiama Friuli Venezia Giulia, una regione per tutti, e l'altro Amare il mare, 2 progetti per una destinazione sempre più accessibile. Il focus è infatti sulla possibilità di rendere sempre più facile per chi è portatore di una disabilità fisica o mentale le splendide spiagge del Friuli Venezia Giulia, i luoghi della montagna, i percorsi turistici in genere, puntando sia sulla formazione del personale che poi avrà a che fare con i turisti, sia puntando alla formazione proprio dei cittadini. Ci sono stati infatti molti incontri nei comuni coinvolti, comuni turistici del Friuli Venezia Giulia. Michele Franza, della Consulta Disabili Friuli Venezia Giulia, nata nel 2015 e autrice del Manifesto per un Turismo Accessibile, che poi è stato adottato in tutta Italia, ha presentato un sito che sarà disponibile nei prossimi giorni, www.fvgpertutti.it, che è un vero e proprio portale dettagliato e molto articolato, nel quale sono elencati tutti i principali siti turistici della regione, E sarà possibile reperire in modo molto semplice informazioni su quanto siano accessibili, per esempio, le porte degli alberghi, se sono abbastanza spaziose, oppure se c'è personale che conosce la lingua dei segni. E ci sono anche fotografie che dettagliano il territorio, per cui vengono evidenziati i luoghi dove, per esempio, ci sono segnaletiche per i non vedenti o esempi di questo tipo. Anche i percorsi turistici, per esempio i camminamenti, sono segnalati con un linguaggio semaforico. I tratti di percorso rossi indicano un territorio non adatto alle disabilità, arancione, giallo, così così, verde, pienamente accessibile. È intervenuto alla conferenza stampa anche l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, complimentandosi per il successo dei progetti, uno già conclusosi, questo relativo al sito, e uno che sta per partire, quello a Mare il Mare. Sistiana, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Prosegue il cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, deceduto ieri a Milano. Tra le sue numerose vicende anche quella dell'antenna di TV Capodistria, attraverso le quali l'imprenditore di Arcore fece nascere il primo canale dedicato allo sport in Italia. Una parentesi molto felice che durò però solo pochi anni, ma che lo storico telecronista sportivo Sergio Tao ce lo ricorda molto bene e ci racconta. Ci mostra quella che definisce la sua Wall of Fame, gli accrediti delle tante partite di cui fu telecronista. Ne conta oltre 3.000 di partite commentate, e poi i suoi taccuini delle telecronache all'epoca in cui i computer ancora non c'erano. Sergio Taucher, giornalista sportivo, per 48 anni la voce dello sport di TV Capodistria, TV della minoranza italiana in Slovenia, che nell'87 Silvio Berlusconi trasformò nel primo canale di fatto solo sportivo d'Italia, forse d'Europa. Come successe l'arrivo di Berlusconi? In modo abbastanza casuale, nel senso che ci fu un accordo fra la società che gestiva i nostri trasmettitori, i nostri ripetitori in Italia, la Ponteco di Trieste, con Publitalia, la ditta di pubblicità di Mediaset, che avrebbe raccolto la pubblicità per TV Capodistria in Italia, ovviamente a questo punto decidendo che tipo di palinsesto mettere in opera, perché la televisione avesse un suo appeal all'epoca in cui c'era tutta questa battaglia clamorosa fra la TV di Stato e tutte le TV private che emergevano all'epoca, in realtà da quello che all'epoca era già il monopolio berlusconiano con le sue tre reti nazionali. Voi eravate di fatto tre giornalisti a contratto e uno addirittura a gettone, arrivarono questi giovani rampanti milanesi e diventarono poi i nomi dei telecronisti di oggi. Certamente loro fecero tutta quanta una grande gavetta, sia dal punto di vista professionale, perché per la prima volta ebbero a che fare con dirette, cosa che per loro all'epoca era abbastanza un tuffo nell'ignoto, e in più dovettero anche imparare come si lavora sotto pressione. Noi a Capodistria non eravamo certamente all'avanguardia dal punto di vista del supporto tecnico e anche informativo, per cui ci si arrangiava, e fu per tutti loro una grande palestra della quale si ricordano ancora oggigiorno con grande affetto e riconoscenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella nostra prima edizione di questa mattina del giornale radio abbiamo parlato della preoccupazione di medici e agricoltori per la richiesta di deroga avanzata dalla regione per l'utilizzo di due insetticidi potenzialmente pericolosi per la salute umana utilizzati nella lotta in vigna alla flavescenza dorata. Presentiamo ora le precisazioni dell'assessore regionale alle politiche agricole Stefano Zannier. Bisogna fare un attimo di chiarezza. La regione ha segnalato attraverso i servizi fitosanitari al Servizio Fitosanitario Nazionale il problema della flavescenza dorata e l'incapacità degli attuali prodotti di riuscire a fare un effettivo contenimento del vettore. Il fitosanitario nazionale, quindi un organo tecnico, ha ritenuto fondata questa posizione e ha chiesto al Ministero della Salute, quindi chi deciderà sarà un soggetto che non c'entra nulla con l'agricoltura e che si occupa di salute pubblica, se può essere ipotizzata la deroga, che significa non riammettere all'uso in via incondizionata un prodotto, ma consentire per 4 mesi non più ripetibili l'uso di un prodotto a condizioni che verranno decise e definite dal Ministero della Salute qualora ci siano le condizioni per farlo, per cui se questo prodotto che era in uso fino a 2 anni fa non verrà più ritenuto comunque utilizzabile, non si utilizzerà. Le valutazioni saranno prettamente gestite dal Ministero della Salute su quelle che sono i possibili rischi di interazione. Questi due insetticidi sono vietati in Unione Europea anche negli Stati Uniti e alcuni vignaioli del Prosecco sono preoccupati perché dicono se ci dovessero trovare tracce di questi due insetticidi nel nostro Prosecco rischiamo di vedere il vino bandito sia in America che in Europa. Proprio per questo che noi riteniamo che comunque se deve essere data questa deroga dovrà essere data in un periodo successivo alle vendemmie, perché l'obiettivo è l'abbattimento del vettore che trasporta il virus della flavescenza, ma deve essere fatto in un momento in cui non esiste prodotto e quindi non ci possono più essere residui. A quando una risposta? Non ne ho la minima idea, vedremo cosa farà il Ministero della Salute, se deciderà di dare questa deroga, se deciderà di non darla e le regole che sicuramente nel caso in cui sia positivo l'esito impartirà. Una notizia di cronaca. La Polizia di Stato di Trieste tra il 29 maggio e il 2 giugno scorsi nella zona confinaria del capoluogo giuliano ha arrestato 4 cittadini stranieri per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Il settore Polizia di Frontiera ha rintracciato un cittadino romeno, un turco, un serbo e un croato di età compresa tra i 26 e i 35 anni che a bordo di veicoli con targa comunitaria avevano accompagnato in Italia complessivamente 24 migranti irregolari di nazionalità afghana e turca. Di cui questi la metà erano minorenni di età compresa tra i 2 e i 17 anni, l'altra metà era costituita prevalentemente da giovani adulti. Alcuni migranti, tra cui una famiglia con 2 bambini, hanno espresso l'intenzione di chiedere la protezione internazionale. I veicoli usati sono stati posti sotto sequestro. Sono le 12.42, passiamo al meteo, il cielo è variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23 gradi, il mare è quasi calmo con temperatura di 20 gradi e 5 decimi, a Gorizia 22, a Udine e Pordenone 20 gradi e 5 decimi. In Aramontana, Tolmezzo 21, Forni di Sopra 17, Tarvisio 16 gradi e mezzo, a Sappada 16 e sul Piancavallo 12 gradi. In quota sul Monte Zoncolan 9 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 8. Sulla costa a Lignano e Grado 22 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 23 gradi. E ora le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Tempo incerto, sarà probabile nuvolosità variabile sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso variabile su pianura e costa. Saranno possibili piogge sparse, dei rovesci e qualche temporale in più occasioni nel corso della giornata, specie sulla zona montana. Sulla costa buona moderata al mattino, poi venti a regime di brezza. Domani tempo ancora incerto, sarà probabile nuvolosità variabile con maggior presenza di sole verso la costa, possibili piogge sparse dai rovesci e qualche temporale, specie al pomeriggio e sulle zone interne. Sulla costa soffierà bora moderata, specie al mattino. Si inaugura oggi a Ronchi dei Legionari la 9ª edizione del Festival del Giornalismo in calendario fino a domenica. In cartellone 195 ospiti nazionali e internazionali, 69 incontri, 41 panel di discussione, 13 presentazioni editoriali, 4 mostre, 4 masterclass, 2 spettacoli, 2 proiezioni di film e 2 premi giornalistici. Fitto il programma che verrà inaugurato alle 17 nel giardino della Piazzetta dell'Emigrante dalla presentazione del libro Il Prisma, storia di omicidio e dintorni della psicologa, criminologa e docente universitaria Laura Volpini. Altro incontro di oggi, quello intitolato Giallo e giornalismo d'inchiesta, a cui interverrà anche Gianni Favero, giornalista di economia dell'agenzia di notizie ANSA e collaboratore del Corriere della Sera, con cui abbiamo parlato di convergenze e divergenze tra il linguaggio narrativo e quello informativo dei fatti di cronaca nera. Secondo me c'è stata un po' una deriva, però forse non è una questione degli ultimi anni, una deriva nel linguaggio giornalistico nel limitare certe forme di narrazione che sono tipiche dei giallisti, ed è un rischio perché da parte del giornalista inseguire il verosimile, innamorarsi di una certa tesi, di un certo film che si è fatto in testa perché è bello da raccontare, potrebbe insomma non incoraggiarlo a fare ulteriori verifiche per scoprire che poi magari la storia non è così colorita come pensava. Io credo che molto spesso siamo tentati nell'utilizzare un linguaggio che non fa onore ed è irrispettoso verso i reali protagonisti di fatti di cronaca, che ripeto sono persone. Un giornale come un editore di gialli sono delle aziende, quindi devono vendere il più possibile, sostanzialmente è questo, no? Quindi è chiaro che il linguaggio più semplice, più naif, più ben contornato è, più volentieri viene letto e quindi si ottiene l'effetto commerciale che ricerchiamo. Naturalmente il giornalista dentro di sé deve avere un'altra bussola, nel senso non deve identificarsi con le esigenze del proprio editore, c'è una distinzione di ruoli, no? Il destinatario del lavoro del giornalista è una ricerca della verità nel modo più onesto e oggettivo possibile, anche se non è scenografica. A Udine il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento di bilancio, decisa poi la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi con un'iniziativa che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe ricalcare quella già concretizzata in via Mercato Vecchio, dove in seguito all'eliminazione del passaggio dell'autobus sono aumentate le presenze e anche gli affari dei commercianti del posto. La perdita dei parcheggi, ancora secondo i fattori della novità, potrebbe essere compensata dall'accesso ai parcheggi interrati già attivi nelle zone adiacenti. Altra decisione approvata, quella di modifica delle zone per le quali sarà necessario il parere delle belle arti per posizionare dehors tavoli e ombrelloni. Presentiamo ora la prima di tre puntate dedicate al Centro di Ricerche Sismologiche di Udine, realtà dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, che studia e monitora l'attività sismica in regione nel nord-est. Il focus di oggi è sulla rete di rilevazione dati, allestita già a partire dai primi anni dopo il sisma del 1976. Il risveglio dell'Orcolati il 6 maggio del 1976 e la dura realtà che il terremoto ha lasciato sul terreno friulano con 5.500 km² di devastazione, 600.000 persone coinvolte, 989 morti, ha imposto la creazione di un centro sismologico a Udine, emanazione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Tra i suoi compiti lo sviluppo della rete sismica, lo studio della sismicità dell'Italia nord-orientale e la sorveglianza sismica con finalità di protezione civile. Si trattava di allestire dunque una rete di rilevamento per l'acquisizione dei dati, una rete oggi tra le più avanzate e complete d'Italia. Siamo andati a Monteprati, in comune di Forgaria nel Friuli, dove attiva una delle prime stazioni costruite. Alessio Compagno è il tecnico OGS che cura la gestione delle stazioni. Le stazioni di monitoraggio sismico e GPS del OGS che noi curiamo vengono utilizzate per appunto il monitoraggio costante 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno dell'attività sismica in regione. Questo ci serve per due motivazioni principali: la localizzazione e la definizione della magnitudo, quindi capire quanto forte e dove è stato il terremoto, e poi tutta l'analisi della sismicità regionale. Oltre ai sismometri, nelle stazioni ci sono anche i rilevatori GPS. Davide Zuliani, tecnologo all'OGS. Una rete viene utilizzata per misurare le deformazioni della crosta terrestre. Deformazioni, ovvero spostamenti. Assolutamente sì, sono gli spostamenti misurati appunto con il GPS che sono dell'ordine dei 3-4 mm a livello regionale in questo momento. Quello che ci interessa più che altro è la variazione di sforzo, quindi avremo circa un millimetro sull'arco alpino, 3 mm sulla pianura e la differenza crea uno sforzo che inevitabilmente prima o poi andrà a sfociare in un terremoto. Quante stazioni come questa ci sono sul territorio? Ne abbiamo circa 42 che ci permettono di gestire l'allerta sismica per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia e Veneto in collaborazione con le protezioni civili di queste due regioni. Nell'ultimo periodo ci siamo concentrati soprattutto su quello che è il monitoraggio sismico degli edifici. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora del mestiere di odontotecnico, una professione che dopo una flessione negli anni della pandemia appare in netta ripresa, anche grazie alle ultime tecniche di digitalizzazione dei laboratori di produzione. Il lavoro c'è, ma mancano i giovani. Ce ne siamo occupati nella nostra trasmissione del mattino. Buongiorno, Regione. Il lavoro dell'odontotecnico negli ultimi 20 anni si è evoluto sfruttando le potenzialità della digitalizzazione. Anche alcuni materiali come l'oro e la ceramica appartengono ormai ad un'altra epoca di lavorazione artigianale, come spiega Claudio Tassan, rappresentante provinciale degli odontotecnici della Confartigianato. Vengono utilizzati materiali nuovi come la zirconia, le resine particolarmente, diciamo, rinforzate, e quindi si è puntato su materiali prettamente estetici, anche proprio sulla tecnica di fabbricazione. Diciamo, la modellazione al CAD, che poi viene fresata con delle micro fresatrici di precisione assoluta. A tutela del paziente, ma anche della professionalità degli odontotecnici, all'interno dell'Unione Europea sui dispositivi medici su misura è obbligatoria la tracciabilità dell'intero processo di lavorazione. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La tecnologia entra sempre di più nelle scuole, anche un tablet può diventare uno strumento didattico quotidiano che integra libri e quaderni senza sostituirli e sotto il controllo del docente. Accade nella scuola media Divisione Iulia di Trieste a partire da settembre grazie a un progetto sperimentale. Siamo in fase sperimentale, deciso di attivare una didattica che farà largo uso dell'iPad. Tengo a dire però che questo tipo di didattica innovativa, per la quale tutti i docenti che faranno parte del consiglio di classe si stanno già formando, non sostituirà chiaramente la didattica tradizionale, ma andrà ad integrarla. Per quanto riguarda la vera novità di questa didattica, ormai già da molti anni i ragazzi possono portare i loro dispositivi a scuola e chiaramente si lavora con i dispositivi, però in questo caso noi avremo una piattaforma alla quale saranno agganciati gli iPad di tutti gli studenti e di tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe. I docenti potranno controllare gli iPad degli studenti, per cui durante le lezioni sarà il docente a stabilire quali app sarà necessario utilizzare e quali invece il docente deciderà appunto di spegnere, questo per evitare che i ragazzi si distraggano. È un progetto al quale teniamo molto, siamo all'avanguardia, se così posso dire. Credo che siamo i primi a Trieste che hanno scelto di fare questo tipo di percorso, anche perché con diversi colleghi ci formiamo ogni anno alla Fiera della Didattica a Firenze, e questo ci permette di avere appunto una visione un po' più ampia, no? E di vedere come lavorano anche altre scuole in Italia. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Spostiamoci ora in Liguria, a Ventimiglia, dove è stata allestita una statua intitolata Maternità, in cui è rappresentata una donna che solleva il suo bambino. Un comitato di cittadini vorrebbe intitolarla a Palma Unfer, che nel 1939 lasciò Timau in carne per seguire il marito operaio. Palma è una madre coraggio che ha sacrificato la sua vita per salvare quella del figlio. Ci racconta questa storia Oscar Puntel, della redazione TGR della Liguria. Nel servizio le voci dello scrittore Enzo Barnabà e dello storico Nico Martinetto. Il lungo Roia di Ventimiglia, una statua della maternità, è una tragedia che accomuna due confini, dall'estremo nord-est al nord-ovest d'Italia. È il 1939 quando Palma Unfer e il marito Fioravante Mentil lasciano Timau, Alto Friuli, per l'estremo ponente ligure. Al valico di Ponte San Luigi si stanno costruendo caserme e dogane. Arrivano e ci lavorano operai da tutta Italia. Il 15 marzo 1939 Palma perde la vita per salvare il figlio. Mentre che i bambini giocavano, uno di loro andò nella limitrofa adiacente ferrovia e la mamma vede che sta per arrivare un treno, lo chiama. Il bambino non sente, allora si precipita a salvarlo, lo prende in braccio, ma nel momento in cui lo prende in braccio arriva un altro treno dall'altra direzione e l'investimento è fatale. Prima di morire la mamma ha il coraggio di lanciare il bimbo nella scarpata e così lo salva. Per lei, per il suo sacrificio, la massima onorificenza, la medaglia d'argento al valore civile. Un balzo nei decenni e arriviamo ai nostri giorni con l'iniziativa di un comitato di 20 migliesi. Di intitolare comunque una targa o una lapide commemorativa alla signora Palma da porre qui dove c'è questa aiuola. Perché? Perché comunque sia questa statua rappresenta la maternità in un gesto bellissimo. La madre col bambino, secondo me, è quello che può rappresentare al massimo il gesto della Palma. È iniziato il censimento della situazione ISEE, l'indicatore situazione economica equivalente, degli inquilini dell'azienda territoriale di edilizia residenziale di Trieste, con un'operazione che servirà a calcolare il canone dell'alloggio da gennaio 2024 e procedure che dovranno concludersi entro settembre. In questi giorni gli inquilini riceveranno una comunicazione contenente le informazioni necessarie. Dal 1 gennaio del prossimo anno il canone dell'alloggio locato verrà calcolato sulla base dell'attestazione ISEE formulata nell'anno 2023 e relativa a tutti i componenti del nucleo familiare, oltre a eventuali altre persone conviventi. Non saranno utilizzabili attestazioni ISEE antecedenti al 1 gennaio 2023. Alle 12.55 6 secondi era la nostra ultima notizia, collaborato in redazione Valentina Veneruso, per la parte tecnica Mauro Ciccarelli e Federico Comar. Da Maria Spezia e Armando Mucchino, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.